c'è qualcuno ancora vivo in radio? Attenzione 10. Cari Guru Vippi, io. Ma perché non ti fai gli affari tuoi? Hai capito, Natalino? Hai capito, coccomane? Marcolino Condo? Ciao Natali, ci sono altre due persone col bip, ancora non sono entrate a voce. Mamma, i turchi è caldo, sono dovuto andare in macchina a fare la spesa grossa. E sono tornato, ero vestito anche, non pantaloncini corti, pantaloni lunghi, coso. Sono tornato tutto bagnato. Io sono a petto nudo in pantaloncini corti qua, perché ci sono 30 gradi. Ho dovuto chiudere tutte le finestre e attaccare il ventilatore. E io ero in macchina senza clima, perché il clima bisogna ricaricare il gas. Quindi era un caso, aprivi i vetri, ma tutto sole, fosse coperto, vedi, ieri era coperto. Ieri però sono stato poco bene e non sono potuto uscire. E qua bisogna tirare la campana in estate, per carità, guarda. Avanti gli altri. È giunto solo il bippi. Il bippi, lascia stare tu l'insalata di riso, il gatto mi vuole rubare l'insalata di riso. E tu mangiati pure il gatto, a secondo. Eia, Natalina, naturalmente io, perché qua è un disintero parcheggio, io da bravo paraculo ho messo lo scooter al posto della macchina, che è sotto la finestra. Ho fatto la spesa, sono tornato, ho spostato lo scooter e ho rimesso la macchina nello stesso punto. Così bisogna essere. Infatti adesso mi comprerò uno scooter anche io, però manco la tocco la macchina, esco sempre in scooter. Solo in inverno la toccherò la macchina, adesso attacco la batteria della macchina, perché è nuova e mi dispiace se se ne va a fanguarla la batteria nuova. E anche per qualcuno un po' guarda male, come dire, a Bozzaghiaccio, comodo, capito, d'altronde io ho due mezzi, io ho due veicoli in strada, no? Se devo uscire con uno, l'altro deve rimanere in sosta, no? E quindi sempre un posto devo occupare. Poi la moto, vabbè, la metto a ridosso della macchina di traverso, attaccata alla macchina, non prendo due posti, capito? Appena tagli il telefono, a dopo, avanti che vuole entrare. L'ho fatto anch'io. Una paga di depravati. Mi pare che me lo metto qui dentro il dipolo, cazzo, per la 27, da una parete all'altra. Nel portone metto. Nel senso verticale, dal portone. Rovinato lì. Mi già hai rovinato, mentite l'hai. Cazzo di ricudo una busilata a gatto. Dai no, gimme. Due passate di nervolaggi, non ci vogliono. Adesso la prendo al cellate sui denti se dice un'altra parola. Papà culo. Ah, bruttotta. Bruttotta. Buonasera Marcolino. È al telefono. Mimi, e beh, Pedivella. Ma non ce lo gioco i denti. E ognuno si ne parla da ricarico come in TV. O farà a piedi o a ronduroni. Insomma. Così è. Lo sento a Marco, ma poi l'altro non so con chi stai parlando. E uno lontano, Lontano? Beh, anche se lontano deve arrivare qua. E vedi che non arriva, se non lo senti non arriva. Salvi di una testa che da te. Può darsi. È sicuro. Puro. Ma io a oggi non ci posso mai arrivare così. Claudio ha detto che non si sente. Tecnicamente è impossibile che mi ascolti. Invece ti ascolto, a parte il fatto che non sono a Ogiro vicino io, sono 8 km da Ogiro io, quindi non sono a Sassari. Ah, allora ho capito male io il tuo QTH. Buonasera Claudio. Buonasera a lei, non so chi sei perché non ti ho riconosciuto. Io non so Grugio, non me ne già andare a abitare Grugio, io sono a Sassi, la SRS è carta. Dopo la fermata del tram, praticamente dopo il centro ecologico. No, no, ho confuso io il corrispondente, Chi sono io? Io sono quel rompicoglione, insomma. I rompicoglioni ce ne sono tanti, se fuori tutti reputi uno di quelli, non lo so chi sei. Ciao Claudio, Adriano sono. Adriano, quindi hai ragione che si è attaccato a Cosio, a Natalina. Ciao Adriano, buonasera. Sì, arrivi S2, però fa perché c'era un po' di correre, ma non ti sentivo. Buonasera a lui, buonasera. Sì, in condizioni perfette di polo verticale, quarto onda caricato. Mi sembra anche un miracolo, mi ha potenza in uscita circa Silva. Arrivi, in assenza di QRM ti devo dire che arrivi anche bene, segnale che è basso, S2, S3, comunque arrivi, tenendo conto io sono abbastanza distante da te, però arrivi. Yes, sono in preda a Cavalli. Ah, Calino, parla la rete, sì. Eia, stavo in QTC con la 50. Lascia perdere però per tutto il tempo e tutti i 50. Qua siamo in DX e tu stai a parlare da 50 a 20 cm di distanza. Tu non sai quanto sono tutti i coglioni le donne. Io lo so benissimo, infatti attualmente sono felicemente single, guarda via. E questa scelta di anno, per tanti anni, cosa avrebbe la nostalgia? Come qua? Ho detto questa scelta di rientrare in radio, cosa avevi, nostalgia? E che ti devo dire, a un certo punto diventi vecchio, no? Ho compiuto 55 anni. 10 anni fa avevo promesso che quando diventavo vecchio, probabilmente sei diventato una persona seria e mi sei dato al radiantismo veramente seriamente. No, già da prima era così. Ma sono diventato vecchio, sì, ho 55 anni, quindi penso. E sei vecchio, quando devi morire allora io Natalino, capito Natalino, lui è vecchio, noi invece siamo giovani. Ha detto che si dà il radiantismo, adesso che è diventato vecchio, adesso si prende anche la patente. Almeno c'è una competenza in frequenza. La patente un paio di balle, la patente della moto mi prende. Sì, ma io ho detto che a 55 anni se uno si reputa vecchio, cosa dobbiamo dire noi allora? Io e Natalino. Aspetta, ok, Natalino lo so che c'ha 10 anni esatti, ma tu no. Io 10 no, ma 7 sì. Vabbè da. Mi mettete un piede in testa e entrambi. Vabbè, io mi sento qui, no, aspetta, ma mi sento giovane, però 10 anni fa ho promesso che all'età più o meno di 55 anni avrei fatto il passo tipo dedicarmi al radiantismo in modo serio, va. Vabbè, Natalino è 3 anni più grande di me, quindi vedi tu, io ne ho 63, perciò se tu ti reputi vecchio, allora sarebbe io che non ho mai mollato un minuto questo cazzo di hobby di merda. Sempre aspetta, basta, ma vabbè, comunque, è così e boh, non si può fare né cage né là. Io sono più giovane ma mi sento già vecchio. Buonasera Marcolino, non so chi sei comunque, buonasera qua. Ma in effetti, che te devo dire? Sì, è un hobby da merda, però ce l'abbiamo nel sacco da bambini. Quello sto dicendo. Anche io ho detto cambiando casa, non metto più niente, non faccio più niente, invece vabbè. Non ho messo niente perché non ho messo niente, sono a verticale 5 bande, la manto per buco, le vuole un basta. Mentre dovevo prima ho buttato via tanti di quei quattrini con parchi, antenne, mazzolonti che per cui non usare niente, invece alla fine. siamo qua, sempre qua. Vabbè, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, riprendi tu e io mi allontano un attimo, che non andrà bene. Io saluto chi è entrato, rimango in bianco, rilancio Mazzarino e sto mangiando l'insalata di riso, da. Oggi ho fatto un bezzardi per via la spesa, per un taglio, per carità di Dio, guarda. Natalino, riprendi. Non mi parlare di caldo, per piacere, che qua c'è caldo veramente. Ed è uscito che pioggia, doveva fare rovesci. Tu vi tornai, io no. Aspetta lunedì, Lugaggio, domani di più, lunedì non ne parliamo. Ehi, se tutto va bene siamo rovinati, là. Via. L'altro chi è, Saverio? No, Adriano è. Ah, Adriano, ciao Adriano, ben sentito. Ben sentito, ma vecchio CB? No, no, 55 anni più o meno. Ciao. Ma che ciao? La voce, ogni tanto vi un po' confondo le persone, tanto io non sono molto attivo, non sono troppo attivo qua, capito? Va bene, no, ma dico CB tipo dagli anni 80, 90, così. Ah sì, dagli anni 80, sono di quelli che c'hai i brondi e fix dynamic che fai i casi di PMR. Ah, ho capito, scusa, non avevo agganciato, troppo, Lugabo mi fuma a questo caldo, scusa, non avevo agganciato la persona. Ok, vabbè, Natali, fa girare tu, io devo finire di mangiare, se no non usciamo. Mangia, mangia. Cazzo, uno scooter mi devo buscare, per forza. Non vuoi una Yamaha X750? Non ho scooter, ma va bene uguale. Io cosa me ne posso, tu mi hai ragione. Vabbè, fai le penne a una ruota che te frega. Sì, sì. Già, me la devono rinnovare la patente, cosa vuoi? Me ne la prendano del tutto. Perché non si può impennare con l'X? No, perché guida pericolosa. Logicamente se lo fai su strada, se lo fai in un campo da cross magari no, ma se tu lo fai su strada e ti fermano, la patente è addio, sempre che riescano a raggiungerti. Oh Natali, a Piazzale Segni, specie il sabato, non c'erano questi ragazzetti con l'enduro che impennano, no? Tutta una ruota, tutto il giro, siccome la benzina non costa niente, no? Vabbè, a un certo punto riescono a beccarlo lì, vigili urbani, boh, tre macchine vigili urbani, circondato, tutti guardando, sicuramente gli hanno stracciato la patente davanti agli occhi. Spero che sono curati con la sabbia. No, è meglio con quella da smeriglio, che così lo rettificano bene. Sì, sì, che testa di scatto, poi si lo mettono col cranio spappolato della porta sotto. Ehi, ma mamma mia, sta chiamando, ma lo dicevo, però i più pericolosi sono quelli che chattano guidando, cioè a parte le impennate qua, ma sai quante volte la gente attraversando rotatorie con gli occhi fissi sul cellulare, non so nemmeno come riescano a scherzare, a cambiare tutto con una mano. Sì, vabbè, ma quelli sono della generazione millenaria, no, non è più millenaria, è una banda di cerebrati, che caso. Oh signore, io sto pensando al cazzo alle 150 euro che devo spendere per rinnovare la patente, che adesso a luglio devo andare by forza perché mi scade agosto. Ma che non lo rinnovare, io mi so che i rumeni con cazzo ce e me, intanto me la devono declassare pure, e così almeno mi faccio allora quella della macchina è brutta e pagherò di meno. Speriamo me la lasciano almeno per 5 anni, perché il 29 faccio 65 anni, siccome la B è da 10 anni me la daranno da 5, penso. No, non me la possono strappare, perché quella lì me la lasciano, ne ho anche un'altra di... Ti arriva la patente nuova a casa, capito? Marco, sei fisso con la cosa che hai visto, te la riprendo. Oh, deve essere l'ha chiamato la mamma. No, lui c'è, lui pranza a quest'ora. Anzi, è presto, pranzava anche più tardi. Lì. Se te lo dico non mi picchiare, però ho fatto un errore con l'insalata di riso, un errore imperdonabile. Che errore hai fatto? Ho dimenticato di mettere le uova sode. E vabbè, già ci vogliono, io le ho messe l'altro giorno, l'ho fatta l'insalata di riso, ho aggiunto wuster, tonno, senza il condimento dell'insalata di riso, una bomba è uscita. Pensavo che era già tardi, l'avevo anche aggiunta, però dovevo cuocere, però sacrilegio, insalata di riso senza le uova, senza le uova mi è uscito, uova. E futtidini Marco, al limite quando mangi stanotte le aggiungi, le metti a cucinare dopo quando hai finito di pranzare, così almeno te le sbucci e le metti in frigo e poi le aggiungi stanotte. No, no, stanotte si calma, si cambia piatto, stanotte calzone. Stanotte anch'io pizza, perché viene Lello con la moglie a cena, quindi prenderemo delle pizze, penso. Sì, io calzone quello solito, prosciutto mi pare, funghi, acciughe, boh, quant'altro, non mi ricordo. Sai perché? Perché rimane più umido dentro, molto più umido, riesce col brodetto, no? Mi sta piacendo un po' così. Ecco, calzone farcito. Aspetta un attimo, mani su un altro. Oh signor! Aspettando! Geremia era che ha portato il cane a fare i bisognini, vero? Vai a bere l'acqua qui, che c'è caldo, vai! Ha lingua fuori il cane, poverino! Ah! Oh, speriamo che non... Lì sarebbe da fleccare, va? Così ero io stasera, perché io sempre, non è che vado nelle ore più fresche a fare la spesa, né in quelle più calde. Non sai perché? Perché nel pomeriggio non c'era un'anima ai market, non fai fila, col carrello arrivi, scarichi, paghi e ti innandi. E infatti, c'è meno confusione. Cosa non c'è? Mi fa male la prostata. Io sono tutto gonfio invece. Avete parlato in due. Io sono gonfio invece. Sì, sì, sì, gonfio, ti sgonfio io bello bene. E vieni, vieni. E poi ti faccio sguirare un telefono. Mattina, sera e notte, capito? Bello bene. E io ti faccio parlare con Muro, hai capito? sì, caro, quando parlo con muro e boh. Avanti, Marco. Chi c'era, Pomponio? Eia. Quanto ti fa male la prostata perché devi sfogare? Sicuro. Yeah, c'è il problema per quello, basta mettere la vente a un tubo di plastica. Hai capito, fa tutto da solo. Marco, allora sai quanto ho aumentato di peso? Se te lo dico non ci credi. Quanto? 20 kg? Ehi, pesavo 52 e ne peso 72, va. Sì, avevi perso molto peso, eri... Mamma mia, com'eri magro, eccetera. Ehi, l'importante è non andare oltre, cioè essere in forma ma senza avere troppa pancia. Io vorrei pesarmi. Io ho aumentato così naturalmente perché adesso deve essere, mi sto riprendendo, capito? Ma prima era uno scheletro. Che è buono così. Oh, yeah. Mi sono preso l'M, come si chiama questo? Sicuro, dove c'è scritto? ZZZG. L'M97, cioè, o 93, dove c'è oggi il bip? M97? Ma cos'è quello col bip programmabile, no? Ah, ti ricordi Antonio, tanti ma tanti anni fa, la Midland vendeva quel microfono con le melodie, gli cambiavi il moduletto che compravi a parte a caro prezzo e gli cambiavi la melodia, non so se funzionasse da Roger Bippo o era una cosa che mandavi così, c'era un microchip con la col motivetto registrato, tutte giabi dure. Mi sembra che era quello che dovevi programmare così dentro, mi pare che era una cosa del genere. Ho questo c'è il Roger Bip, ha un tono. 45 euro. Me la fate pagare 41. Ti serve un microfono con lecca lecca? Amplificato con lecca lecca? Se avevo già preso questo, è stato con lecca lecca. Dove nuovo? Ecco la lente alla scatola, ma ho aperto il sigillo io, nulla. Ci ho dato così la cioè, anche il prezzo addirittura. Se me lo ricevi da 2 settimane fa l'ho preso. Se lo ricevi 2 settimane fa andava bene, anche il 1300 o il 1000, tanto i pezzi del 1000 ce li ho, capito? Eia, qua a trovarlo non fa. Però avevo una vecchia pubblicità di quel microfono Midland, c'avevi tipo la cavalcata alle valchirie e pure altri sonetti del genere, gli dovevi cambiare il modulo, era come una piccola cartuccia, tutto per fare cionfra, capito, un radio, tutto lì. E sapete cosa c'era, che cosa c'era, tipo l'effetto ecco rettangolare, c'era questa scatola, in pratica era programmabile, c'era 60 bip, c'era, capito? Da poter mettere, erano 60, poi me la sono lasciata a cosa? Me la sono lasciata a Baresi, perché uscivo con questo CB di Baresi, dice, questa sera dice, quando abbiamo fatto finito il lavoro, dice, potete mettere via la camera, questa scatola è tanta veloce e bip, dato che sei appassionato. E tu vabbè, lascia lì pure, già la pigliola invece me ne sono dimenticato, e non l'avevo presa, figurati. Non ce n'è traccia, non ce n'è traccia su internet, bisogna fare forse una ricerca mirata, ma tante roba del passato. Era Alan F qualcosa, non mi ricordo. Riprendi Adriano, che è bianco per me. Adesso ho capito di cosa stai dicendo, quello l'ho avuto anch'io. Faceva la voce sensuale, faceva. Sì, mi pare che si chiamasse XXX, quella suoneria, insomma, quell'effetto sonoro. Sì, c'era anche quello. C'era la tipa che ansimava. scuola di Gabbo. Sì, quello l'ho avuto io. C'era Angelo Delfino quel microfono, ce l'ha uguale. Sì, l'ho avuto io quel microfono. A Gianni l'avevo fatto sentire. Ha detto Gianni, adesso ti faccio sentire un'amica. Schiacciavo il pulsantino. E questo è il lavoretto per fuori, mi ha detto. È passato a casa 2 secondi e stava facendo il lavoretto. Adesso il microfono non lo trovi più, manco se ti spari. Era un FV, non mi ricordo, comunque era della Midland. Bisogna guardare il catalogo Midland, se riesco a trovarlo, forse magari ce l'ho lì. Che cos'era? Che modello era? Sì, roba anni 80 penso, poi era campionato anche male con scarsa qualità audio, cioè proprio una porcheria era. Vabbè, si comprava di tutto all'epoca. Già lo so che si comprava di tutto. Non so se è piazzato questo microfono qua nel 2009, commercio oppure nell'apparecchio omologato, quello il Polmar. Se esce bene, se esce male, boh. Avevo detto che avrebbero dato a qualche bilendo che se la piglia in Napoli stasera. Non ne ho microfono, cioè, al mare, c'ho solo quello da tavola, cioè ne ho due. Ma se tu hai microfono da tavola, cioè il Sennheiser, l'MB+4 e l'MB+5. Quello da con l'attacco Kenwood. Claudio non è rientrato dalla... andava a bere. Claudio sì. È sparisito. Eppure era una cosa che io vedevo su internet, e ormai c'è tutta roba nuova, quando vuoi fare una ricerca di roba antica, no? Ti mette prima di tutto tutta roba nuova in vendita, cioè in cima alle ricerche. E vabbè, pazienza, non è importante. Vabbè, quello sì. E va bene. La modifica c'è, questo c'è, questo stereo. Cosa ridere? Si può anche modificare. Antonio, ma tu WhatsApp ce l'hai ancora o non ce l'hai più, non lo usi più? Sì, ce l'ho i cambi telefoni di WhatsApp. Ce l'ho l'uno nell'altro. Ho mandato a far vedere la bobina della Venom, la ridicola bobina della Venom a vedere, non l'hai mai aperto? Sì, che l'ho aperto, guarda che l'ho aperto, l'ho vista. Da quello che l'ho vista. E quindi anche la BA27L probabilmente aveva una cosa lì nella campana, nella plastica che c'è alla base, no? Perché in mezzo alla staffa non può essere, perché è tutto alluminio quello, capito? Ci deve essere un sistema, una bobina lì alla base, proprio alla base. C'è la bobina alla base, un po' più su rimane, prima c'è l'attacco del PL, poi deve avvitarlo dove c'è la staffa, hai capito? E poi sopra PL fate la carica nera, che la salvatura te la trovi in basso, dopo la seconda te la trovi al centro, a metà della bobina, l'ultima te la trovi agganciata allo stiro. C'è una lamella, c'è che sarà lunga, come ti posso dire, 1 cm, larga 5-6 mm, hai capito? Saldata lì e poi sotto c'era la guarnizione e poi c'è quel cappuccio bianco, e poi noi abbiamo lassato, hai capito? E non è mai successo nulla alla tua, perché l'avevamo rinforzata lì, capito? Invece in certe, come è capitato, tipo quella di cosa, di di Giuseppe Leoncino, si è staccata la salvatura, capito, sotto sopra, non sotto. Io invece avevo fusa, quando avevo provato a Mario Massa, con lineare, quello grosso, insomma avevo fatto la bobina, e era dimezzata di diametro. Ah, Giuseppe Leoncino aveva avuto problemi con la con quell'antenna come la mia, la Energy, così è, o Sirio che sia. Guarda, ha avuto problemi lui, ha avuto problemi Natalino, ha avuto problemi anche Marco Radiamatore, se non ricordo male, con quell'antenna lì. Eppure pare che tu la puoi isolare quanto vuoi, no? Dall'esterno la bobina, come abbiamo fatto noi con la con vulcanizzate, però pare che l'acqua passi dall'interno, dallo stilo. Praticamente passa dallo stilo verso quel pezzo di plastica che si innesta nello stilo, cola da lì e te la inumidisce lo stesso, capito? E c'è un foro e vede male dopo mezzo centimetro che dove è agganciata la bobina, capito? C'è un foro di là sopra. Quel foro è talmente piccolo che in pratica quando si riempie, se tu non lasci lo stilo da un pezzo all'altro, ti si forma l'acqua e poi piano piano, quando si oscilla, filtra all'interno, capito? Perché lo sai che tu da metallo alla plastica si allarga o si stringe, tutti i metalli fanno così. Quindi dove trova per penetrazione, hai capito? Allora o ti forma l'umido oppure dieta l'acqua all'interno. Ma noi grazie a Dio abbiamo fatto, ci avevamo messo tutta la vasellina, dopo la vasellina ci avevamo messo il nastro isolante, dopo il nastro isolante il vulcanizzante, e quindi come fai a trovare l'acqua dentro di lì? È impossibile, hai capito? L'avevamo fatta apposta per quello, quel lavoro lì, proprio per non entrare l'acqua dentro. Infatti grazie a Dio poi avevano stato anche tutto uno stilo tra un diametro e l'altro, ci abbiamo messo la stessa identica cosa, nastro isolante e nastro vulcanizzante a maletta, proprio ben fatto, no? In modo che e poi sopra, se ti ricordi bene, ci avevo messo la vasellina, così almeno rimaneva il nastro vulcanizzante un po' umido, in modo che non si allargasse molto. Bonio, ci sei? Mi senti? Sì, io ti sento, a Puglia. Come mi senti? Bene, segnale 9 e radio 5. Quindi la mia radio va bene? E la voglia che va bene la radio, ci mancherebbe. Ma sei troppo lungo parlando, o è sì o è no? Non ho capito se sono troppo lungo. Parlando, arriva bene la radio o no? Bene, benissimo. Certo che arrivi bene, arrivi benissimo qua, non ho neanche capito chi sia addirittura. Ti ringrazio tanto, ci sentiamo un altro momento. Va bene, ok, quando vuoi tu, non c'è problema, già siamo qui 27, pochi ma buoni, avanti Marco. Sì, no, credo fosse Giovanna che stava provando qualche antennino, qua a Santiago 6. Santiago sei la persona che parlava con te, sì, ti ha detto di fare passaggi brevi praticamente, che tu certe volte fai passaggi un po' falconiani, capito? No, facevo passaggi falconiani per spiegarti come avevamo fatto il lavoro, perché avevamo fatto così, se no addirittura ci aveva avuto l'antenna piena d'acqua che tu, e invece noi abbiamo fatto, siccome tu mi hai portato 10 rotoli di non di carta igienica, ma di nastro isolante e poi vulcanizzante, più la vasellina abbiamo riempito come si deve, hai capito? Infatti quando l'ho piazzata adesso già viene poco male a salire là sopra, già, perché se poco più stringe con la mano più ti scivola lo stilo. Eppure lo sai che questo della vaselina io non me lo ricordo, io so solo che il vulcanizzante lo volevo asciutto, quindi la vaselina è stata messa forse all'interno degli elementi, nei punti di contatto tra gli elementi, però poi dove ho messo la cosa la volevo asciutta in modo che si rapprendesse bene il vulcanizzante. E poi per dar tempo al vulcanizzante di rapprendersi abbiamo messo anche il nastro isolante sopra il vulcanizzante. magari l'asso isolante vola tu via, però il vulcanizzante già era bello stagno, ti dico di ogni malloppo, e ne abbiamo usato un bel di vulcanizzante, un bel. Io lo so, cioè, se te lo ricordo, io me lo ricordo, ci avevamo messo anche la vasellina per ammorbidire, come si chiama, per far scivolare l'acqua, quindi ci avevamo messo prima il nastro isolante sotto, poi il vulcanizzante sopra e poi il nastro isolante di nuovo sopra e poi ci avevamo messo la vasellina. E infatti grazie a Dio, quanti anni c'è quell'antenna sopra, è perfetta. Sì, dal 2014 l'abbiamo fatto, a maggio 2014, sono passati 8 anni. 8 anni, grazie a Dio, i radiali ci sono tutti. Tu avevi stretto a morte la base, la piastra che tiene i radiali l'avevi stretta ben bene, con doppio dado, contro dado, e quella, come si chiama, quella, non fascetta, quella guarnizione, quella rondella autobloccante, quella spezzata, come si chiama, un nome qua in ora buona, vabbè, e quindi c'è tutto, è tutta integra. Vorrei solo salire e controllare le condizioni delle staffe, che quelle ci sono dal 92, e vorrei vedere il colore della bobina per capire se si è ossidata molto, capito, il rame della bobina. Aspetta, stiamo monopolizzando, vediamo chi c'è rimasto, Natalino, Adriano, chi c'è qua, Claudio è rientrato, oh, troppo caldo c'è per parlare, io li capisco, infatti viene voglia anche a me di andarmene in branda un attimino, bello, al fresco, e perdere i sensi col ventilatore. Combatti con la pare che il rinfrescante si chiama. Ti piace quello, ci metti l'acqua dentro, il ghiaccio, ha voglia che ti rinfresca. Il raffrescatore d'aria, dici, no, mi sono rotto le palle. Praticamente devi stare ogni poche ore, col caldo che c'è, ogni pochissime ore, ogni 2 ore devi stare a mettere i polaretti nuovi e rimettere quelli in ghiaccio, perché si sciolgono subito, diventano subito caldi. Poi devi mettere solo acqua distillata, perché altrimenti blocchi la pompa e tutto, c'è scritto nelle istruzioni, almeno un quello dell'Argo, Argo Clima, devi mettere acqua distillata, non puoi mettere il rubinetto, oppure la puoi mettere ma tu rischi il pericolo, che poi ti infradigheggia l'elemento che si imbeve d'acqua, si può incrostare il motorino che fa tutto il circuito idraulico che fa girare l'acqua, a me, capito Antonio? E allora ho detto, se mi devo carrare pure le taniche di acqua distillata, non ho trovato le palle. No, io l'ho usato, io lo uso così, con l'acqua normale, quello che ho io, non è dell'Argo, ma è un'altra marca, l'ho preso dai cinesi che c'è i veri prodotti, la bricocina mi pare si chiama, 100 euro ho pagato, e grazie a Dio funziona ancora, è anche perfetto. Poi invece Giovanna ci aveva pigliato 2 piccoli, quelli non servono proprio a niente, manco li frescavano, non so, è come se non ce l'avessi agganciato in casa. Ma quelli a cubo, con la luce colorata, sì, il cinese lo prendeva a poche lire, ma me l'ha preso tanto per, a costo di usarlo come ventilatore, come ventilatore da vicino va bene, ma è ridicolo. E in TV lo prendevano appena uscito tipo 59 o 69 euro, dicevano climatizzatore portatile, ti rinfresca una stanza, ma dove, ma una parolaccia mi trovi, ma dove che rinfresca? Io ho provato con l'acqua ghiacciata a 1 metro, senti l'aria ma non senti il ghiaccio né niente, senti solo l'umidità, quello che ti fa venire gli accidenti. No, quelli non ho mai comprato, quello lo vendevano nel periodo del lockdown. Lì. Capito, c'era quello, poi c'era il monoculare che se vedi la luna, poi vedi la persona che sta facendo la pipì a 3-4 km di distanza. Infatti quando ho comprato il monoculare per guardare i bagni, cazzo, 57 euro, ma ho speso, scendo dai cinesi a fianco a Città Mercato, 13 euro costava, uguale identico. Infatti quando l'ho preso gli ho detto sei morto, guarda cosa ho comprato. Ho guardato te lo sei preso, mi ha detto sì, e quanto hai pagato? Ho detto 13 euro, al momento non mi tira la palella in testa. Però vedi, quello è vabbè, il prezzo, è come un ventilatorino da tavolo, dai, mi pare va a 5 volt volendo, se lo puoi mettere vicino al computer ti fa da ventilatore, senza mettere acqua né niente, capito? C'ha il LED RGB, però per quel prezzo, vabbè, si può prendere come ventola, come ventilatore, ma in TV te lo spacciavano come chissà che cosa, tutti imbrogli, capito? Imbrogli. Era per il lockdown, e quindi più di uno ne hanno inchiappettato, quello che hanno inchiappettato anche a me, e convinto che deve essere bello questo binocolo, eccetera, eccetera, gira, gira. Ho preso anche la basettina per agganciare al telefono, vado agganciato, un capo agganciava. Allora ho preso e lo uso così, quando c'è da fare gli impianti, davanti alla TV, guarda dove, dal tetto dove c'è il ripetitore, capito, distante, vado e faccio il puntamento, almeno per quello che me l'ho ammortizzato. Capito? Ah, sì, ma mi avevi parlato di quel monocolo. In TV praticamente quei siti là, cioè quei siti, quelle pubblicità in TV te lo fanno pagare un bel, poi lo trovi dai cinesi alla un quarto o un quinto del prezzo, come era media shopping una volta, ti ricordi? Una roba a prezzi gonfiati, per carità, guarda, tutte cinesate poi, tutte, dalla prima all'ultima. E tu le cinesi, infatti, sì. Quindi per un periodo 13 euro, invece il primo avevo pagato 57, cerca di, guarda, di rimandargli indietro, mi ha detto fa la cosa che come di rabbarri, cerca di direttore, io non avevo mai già preso la Bianco, è arrivato questo pacchetto piccolino, è tutto in occhio. Tre piedi, c'è il monoculare e poi ho dovuto dire da parte l'attacco per come si chiama, perché mancava, per agganciare al telefono, altri 10 euro. Quindi figurati, ho preso, c'è un'altra cagata, ce l'ho mandati pure. Sono andato lì da cosa, dai cinesi, e tu fai vedere dove sono i binocoli. E non mi vede monoculare uguale, ci ho detto. Con Giuseppe è andato, con Giuseppe di vicino. Ho detto aspetta che me lo prendo e me lo porto a casa, gli ho detto. Proprio oggi, io esattamente lunedì, io già mi chiudo a casa, mi chiudo nel pozzetto, mi Claudio. Attualmente siamo 37 gradi, già mi piace poco che nel cavello mi colico. Sì, è veramente. Io nel pomeriggio ho fatto questa, dovevo per forza fare la spesa grande in macchina, clima non c'era più, bisogna caricare il gas, ma tanto il clima mi fa male, quindi tanto vale aprire i vetri. C'era Natalino, coso, boh, tutti spariti. D'altronde, guarda, a me viene caldo solo a parlare, mi accaldo, capito? Infatti proprio stacco, mi accendo la TV, mi metto il ventilatore, bibita fresca. No, stavo facendo una barba, l'hanno sciacquata, così non è mattina, mi alzo un pochino più tardi. Gappa, ci sono 30 gradi, 30 gradi fuori, sta segnando, interni sta bene 23, fuori 30, 7 gradi in meno, ci siamo fatti i conti. Vediamo se ha cambiato, meteo Sassari, meteo sabato sì, 30 al massimo, qua segna il picco, domenica 34, lunedì 35, però potrebbero essere di più, hanno detto molti che potrebbero essere molti di più, Pucci. Sì, ma non è molto affidabile Marco, anche l'altro giorno picchi di 38, 40 e poi era una caglia di 38 gradi, ma anche io sono in Africa, qui ce n'erano 34. Sopportabilissime 33-34, quando inizia a essere 38, minchia. Ma tu immaginati, vabbè, loro sono abituati, come fanno a campare in quelle zone subsahariane dove ci sono 42 all'ombra tutto l'anno? Vabbè, tutto l'anno no, ma che cosa fai? Non c'hai aria da respirare? Uno è avere quei gradi, uno è essere 30 sotto zero, capito? Tu immaginati, mio cognato ha fatto l'uscio 34 sotto zero. Sì, c'era una città che addirittura era ancora più fredda. C'è una cosa folle, folle. Tipo le macchine dovevano stare sempre in moto perché se spegnevi il motore ti si ghiacciava tutto l'impianto refrigerante, non ce la faceva, capito? Ti si ghiacciava tutto, anche l'antigelo ti si ghiacciava, fuori di gabbo. Infatti non le potevi uscire come facciamo noi, sei in macchina, te ne scendi e fai la pipì in campagna, no? Lì se togli fuori il pistolino non lo metti più dentro. Ti si ghiaccia il gettomi, come esce si ghiaccia all'istante, capito? Pisello compreso. Fa ritorno di fiamma, ti pisce addosso praticamente. È triste, mamma mia. Io guarda, sinceramente preferisco la primavera, la temperatura primaverile. Quella con sempre un pochino di maestralotto, sì, un pochino di beccio, le giornate soleggiate ma che non arrivano a 22 gradi, trovo una cosa del genere, tutta l'estate così, ma quando inizia lo sciocco, mamma di dolci, che vento di merda, per carità, se invece ci sono anche 30 gradi, c'è un bel maestrale, maestralotto, allora si sta bene, ma quando inizia ad esserci 30 gradi, vento di beccio, vento di sciocco, quei 30 diventano 60. Pensa che mamma, non sapendo le temperature, che vorrebbe provare a uscire dopo tanto, no? Dice, dai, lunedì usciamo. E dice, sì, usciamo lunedì. Cosa ci fanno? La bara a due piazze ci fanno, da Lungaggio. No, non si esce, sporto qui da una certa età, ma stai scherzando. Mamma è sempre rinchiusa a casa col coso acceso, capito? Nonna non fa, non il tiratore lì, lo tiene dalla mattina, basso, per la temperatura sempre bella fresca dentro casa, lo lascia sì, no, tu, sempre acceso, sempre acceso, infatti prende certi colpi di luce, si lamenta mio fratello, mio figlio, lui, sorridi 300 euro di luce, no ma, accendo alle 7 del mattino, spegniamo l'indomani alle 7 il condizionatore. Infatti io lo temo, noi ce l'abbiamo portatile, a parte credo che il 110% sia andato tutto a puttane, perché qua non hanno mai iniziato, e ho sentito cose tribule, che le banche non stanno pagando le imprese, non ci sono più soldi, anzi chi ha iniziato già i lavori rischia pure di pagarsi i lavori fatti fino adesso di tasca, tutto un casino, meglio, anzi hanno detto giustamente, meglio non aver iniziato qua, perché se era a rischio la cosa era tragica. E poi dovete pagare lavori in presa, lascia verde. Non so come è andata, anche dove abitavo io prima, non mi hanno chiamato, io ho ancora una quota da avanzare, non mi hanno chiamato, evidentemente non hanno iniziato niente. C'è stata qualcosa che non ha funzionato, anche perché sono belle modifiche lì, appartamenti, terrazzini e casini vari. Ma Natalino c'è anche, Natalino riprendi dai, che vada bene. Da un po' che non risponde, forse sta studiando oppure si sta rinfrescando eccetera. Eia. Sì, poi chi non ci perde mai sono le banche, chi ci perde il condominio, i condomini e le imprese magari. Le banche non ci perdono mai, maledette. Non ci perdono mai, no, aspetta che torno subito. Fai. Hola, test, 1, 2, 3. Tutto sballato sto pazzo, metto per carità. ZG Mondezza, guarda. Antonè. Oh, cazzo, sono qua. aspetta, c'era chi ha breccato avanti? Buttalo via. Ciao Marco. Ciao Giulio. Ciao, stavo usando dopo tanto un altro wattmetro ZG, no? Funzionava praticamente la parte wattmetro, per modo di dire. Allora, mi segna quasi 6 watt di portante muzza, questo baracchino ne ha 3,5 invece. Quando vado a fischiare, me ne segna oltre i 10, se ne va proprio a fondo scala, sì sì, per carità, ho fatto bene a pigliare il Daiwa. Adesso questa mondezza ce la butto nel cassonetto. Ok, io ne ho, dunque, della ZG ne ho due, uno è accordatore di antenna anche, tra l'altro, TN1000, l'altro non mi ricordo come si chiama, poi ne ho uno di quelli professionali, KDV, non mi ricordo, 520, quello è professionale proprio. Ah sì sì, tu avevi preso tipo il Diamond, quello che fa le varie bande, mi pare fa HF, VU, quello lì era? Sì, fa tutte le bande fa, sì, quello sì, non ricordo esattamente perché ce l'ho davanti, è VK, VW, non mi ricordo, VW 520, VD 520, o qualcosa del genere, ma non mi ricordo esattamente come, comunque fa tutte le bande, sì. Sì, sì, quello era un candidato quando io dovevo cambiare l'osmetro, solo che dovevo fare il fondo scala, invece lì il dive è comodo, cambi di canale di frequenza, di banda all'istante premi, ti dà già la lettura diretta, riflessa e relativo SWR, SWR quello lì. Se no era carino, anche compatto, perché il dive è un barasone, cioè se te lo porti in macchina è un po' impegnativo, però vabbè, tanto io la misuro da fermo, tipo a Piazza dei Segni, alle stazionarie, quando devo tirare le antenne, non è che lo lascio fisso. E poi quel dive, quel Diamond l'hanno fatto di 1000 marche, hanno marcato Telecom, Proxel, l'hanno copiato tutti, capito? Certe volte mi chiedo, certe volte costa più la copia del Diamond originale, lo sai, e tanto vale allora comprare il Diamond. Sono rientrato. K. Claudio, stavo parlando del Diamond Rosmetro, Wattmetro, c'è il modello solo HF, poi il modello fino a 200 MHz, poi c'è il modello che fa HF, VHF, UHF, addirittura c'è un modello estremo, il 1000, che fa fino al GHz, vabbè. Però era, Giulio, sai perché non l'ho scelto? Perché era un po' piccolo il display, a parte il fondo scala laterale, era piccolo il display per la mia vista, invece l'altro è spettacolare. Quindi ogni tanto mi becca Claudio a pensare se iniziano le antenne. Come quella volta lì con l'antenna finta bibanda, Claudio, dice che mi ha detto, ma cosa ti vendi tu, pirata? Beh, ti ho visto da lontano, ciao Giulio, ti ho visto da lontano, pensavo fosse la tua macchina, pensavo, non ho mai visto questa macchina, se la sei, con l'antenna centro a tetto, base magnetica, sembrava una 70 della Remo, invece era con la 27, no, io ho il, sì, UHF, poi, fa VU, HF praticamente, però è della Revex, capito? È della Revex ed è molto molto molto molto precisa. Io a volte lo confronto con quello, con la T250 della Kenwood, è perfetto, veramente molto molto preciso. Avanti Giulio. Ok, ciao Claudio. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare avanti, che era? C'era una portante insieme a te. Vabbè, no, io appunto stavo dicendo, ma quello che io si illumina anche, Marco, per cui, perché tu mi stavi parlando adesso questioni di vista, eccetera, no? No, quello si illumina anche, proprio bello, chiaro, una bella luce veramente. È anche grande pure come quadro di Smith, capito, Marco? Sì, sì, è carino. Allora, c'è l'SX100, mi pare sia quello base, che fa HF, forse la VHF bassa. Il 200, il 400, addirittura c'è il 1100 che è quello che è anche il gigahertz, capito? Arriva ai 1300 megahertz. Non so nemmeno se sia in auge la banda di 1300. Claudio, niente ne sai. Sui 1200, 1300 ancora modulano pochi o no, non più? Sì, c'è qualcuno che ha i 1200, ma no, non c'è nessuno. Devi comprare l'antenna per i 1200, la radio con i 1200, che uno possiamo che costa, ti costa 600 euro in più, solo quello c'è il 1200. Alla fine per fare che cosa? Per fare qualsiasi locale con due o tre persone, non c'era nessuno. Io ho l'antenna anche per i 1200, ma la radio non ne ho, non mi interessa. Capito? Ma quello che c'ho io fa anche 50, quindi fa HF. Quindi da 0 a 50 MHz e poi da VLU, dalla reverse, anche il mio è illuminato, si illumina, c'è il pulsantino che lo accende e lo spegne. L'ho pagato una barca di soldi, ce l'ho tanti tanti anni, l'avevo comprato alla fiera, la fiera radioamatore, costa un sacco di soldi, quelle della reverse se sono anche più cari di quelli della Raimond. Avanti Giulio. Ok, sì, adesso l'ho guardato. Allora, con l'esattezza è, oh Marco, KW520, quello non me lo ricordavo bene com'era. L'ho guardato, ho preso il cassetto e l'ho guardato. Va bene, comunque funziona molto bene, no, non è un problema. Sì, lo so, molto costoso quello, sì. E per cui vanno molto bene comunque. Ma ne ho anche uno piccolino per la macchina, oh Marco. Piccolissimo, saranno 6-7 centimetri. Anche quello, facendo la comparazione con quello professionale, va bene, è uguale. Non c'è differenza come valori. Sì, guarda, ti dirò che una volta, 20 anni fa, 30 anni fa, gli ZG ancora li facevano quasi più precisi, ma adesso, cioè uno mi segna i watt giusti e stazionari non li segna, tu vai al 200 sotto 1 e 1, vai al 200 sopra 1 e 1, non segna stazionarie. Tutto è uscito di fabbrica così e io me ne sono accorto in ritardo e vabbè, non ho potuto restituire in tempo. Quest'altro invece segna i watt a cavolo di cane, fischio ne segna 12, qua. Sì, va fuori scala proprio, no? È tutto smallato. Ogni tanto li monto tanto per vedere se quando cominceranno, non so se si possono tarare da dentro, boh, Pomponi ha detto di sì, ma cioè se io li metto 4 watt deve segnare 4, tarandolo col Daiwa vicino, ma non ne vale manco la pena, mi fanno solo incazzare queste cose del ZG, non ne compro più. I microfoni vanno bene, però gli strumenti non ne voglio più sapere. Vai Claudio, vediamo se c'è ancora Antonello o Natalino. E io ho lasciato Antonio Bianco, ovviamente c'è un sacco di gente, ma io non te lo dico. No, guarda, il mio, io mi ricordo che il reverse che avevo comprato io l'avevo pagato 180 euro, ma ti parlo di 6-7 anni fa, 180 euro, adesso non so quanto costi. Poi ce ne ho due della ZG che funzionano molto bene, c'ho il 700 che era gli incrociati e poi c'ho il VU che era gli incrociati lo stesso che il, non mi ricordo che cosa, sono tutti e due dentro l'armadio, nuovo dentro la scatola, li avevo presi così da battaglia, però anche quelli funzionano benino, vanno bene, ok, e quello 700 mi pare che sia addirittura VHF, VHF, HF, mi pare, e l'altro invece solo VHF, grande, e poi anch'io ne ho uno piccolino per la macchina, però è sempre VHF, HF, io non me ne faccio niente perché non ne ho mai messo macchina, ma quando c'hai magari fai l'impianto per le V o per le U, è meglio strumentare tutto se non ci rimetti il finale. Vai Giulio. Ok, sì, ripeto, anch'io ho due ZG, uno è